Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la città. Io sono sempre Caterina, alla conduzione con Antonella Cortese di questo programma. Ciao Antonella. Ciao, buongiorno a tutti. E anche oggi, che è novembre, il nostro programma è sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E l'apertura di oggi è tutta sportiva, ancora sport in carcere, anzi dal carcere, perché 10 atlete della casa circondariale di Rebibbia femminile sono uscite lo scorso 21 settembre per correre alla We Run Together 2021, un meeting inclusivo di atletica leggera coorganizzato dalle Fiamme Gialle per i 100 anni dalla sezione atletica e la festa del loro padrone. E questo meeting si è svolto lo scorso 21 settembre nel centro sportivo della Guardia di Finanza a Castel Porziano e così le 10 atlete di Rebibbia hanno corso la staffetta 4x400 con le maglie di Atletico Diritti, perché queste detenute sono anche le giocatrici della squadra di calcio A5 di tale polisportiva. Quindi un meeting inclusivo di tante realtà che vi hanno partecipato? Sì, il meeting, si legge per l'appunto nel sito di Atletica Vaticana, è stato inclusivo perché anche sulla scia dell'enciclica Fratelli Tutti e delle parole del Papa Francesco sul valore dello sport, lo spirito dello sport non è certo agonistico, ma appunto di testimonianza di fraternità. E quindi erano presenti atlete e atleti anche paralimpici che hanno preso parte, vinto anche le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. E nel meeting ci sono anche state gare particolarmente inclusive che hanno visto protagonisti carcerati, come nel caso di queste ragazze, atleti con disabilità, giovani con sindrome di Down e anche i 2 migranti di Atletica Vaticana che sono stati accolti come atleti onorari. Quindi è stata una bellissima testimonianza questa, se ci pensate, anche da ripetere in altre città che sono sedi di carceri. Penso ad esempio alla nostra realtà bolognese e alla casa circondariale della Dozza, dove io sono volontaria, e al progetto sportivo che 2 ragazzi del polo universitario carcerario, Paolo e Donald, che voglio salutare, mi hanno presentato questo progetto che si chiama Tiro Libero PUP Calcio a 5 PUS Bologna Redemptum. La missione del progetto ve la voglio raccontare perché è veramente straordinaria, è quella di diffondere l'attività sportiva agli studenti universitari e nello specifico sviluppare il calcio a 5, il calcetto, tra i soggetti privi della libertà personale come strumento di formazione, aggregazione e crescita personale, come scuola e sport di vita. E loro vogliono promuovere lo sport, e questo ve lo racconto io, ma mi piacerebbe una volta che ve lo raccontassero loro, perché me l'hanno raccontato con tantissimo entusiasmo che io non so se sono in grado di ripetere alla stessa maniera. Però lo sport come strumento di prevenzione verso comportamenti aggressivi, per esempio, che sono soliti manifestarsi in comunità come quelle carcerarie e in alcune realtà dove ci sono particolari patologie sociali. Lo sport come strumento di crescita identitaria, come attività sportiva organizzata e anche come proposta educativa che permetta di scoprire attraverso il lavoro di squadra il rispetto dei bisogni di ciascun atleta. Allo stesso tempo una maggior consapevolezza di sé, del proprio corpo, valorizzandolo e rispettandolo. Io spero che questo progetto vada in porto, che sia accolto dalla direzione penitenziaria. E faccio migliori auguri a questi ragazzi, continuando con la playlist del giorno, sempre con Michael Jackson, che non so se lo sapevate, era anche un filantropo di grandezza inarrivabile, tanto da meritare l'inserimento nel Guinness dei primati come l'uomo che ha effettuato in termini economici la maggior quantità di donazioni a favore di enti benefici. Tant'è vero che nel 92 ha fondato personalmente la Heal the World Foundation contro lo sfruttamento minorile per ogni forma di abuso e la ricostruzione dei paesi colpiti dalle guerre. Tant'è vero che nel 1993, durante il Super Bowl, che è l'evento di football sportivo americano più in voga, Jackson si è esibito cantando Heal the World e tutti i proventi sono stati destinati per i paesi con situazioni di povertà e di guerra molto gravi. Durante la crisi nei Balcani, Jackson, sempre tramite la fondazione Heal the World, ha inviato a Sarajevo, pensate, 46 tonnellate di medicinali e finanziato così corsi di formazione sull'abuso di alcol e di droghe. E per questo motivo vi faccio ascoltare Heal the World, un brano del 1992. E noi ci rivediamo tra pochissimo con Antonella. To get there, if you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There would drift, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Bentornati dopo il brano musicale, siamo con te. Allora Antonella, ci parli di una pratica molto brutta, ecco, che è presente tuttora in Sudafrica. Raccontaci tu che cos'è. Allora Caterina, siamo in Sudafrica e parliamo dell'ukutwala, che può essere definita come un modo culturalmente accettato in base al quale un corteggiatore rapisce una giovane donna, portandola a casa sua con l'intento di costringere i genitori della ragazza a impegnarsi in trattative matrimoniali, quando si presentano degli ostacoli ovviamente a una normale proposta di matrimonio. Ovviamente il ruolo delle famiglie e della comunità nell'organizzazione del matrimonio tra una donna e un uomo è il principio più importante, fondamentale in questa pratica dell'utuala. E tale senso di solidarietà e di aiuto reciproco rientra nella filosofia Ubuntu, per cui per comprendere appieno la pratica dell'utuala è necessario circoscriverla all'interno del suo contesto di appartenenza, ovviamente. La comunità sente il dovere di intervenire quando la coppia coinvolta incontra delle difficoltà nel portare avanti la propria relazione. Quindi la comunità sente di intervenire, e non poco, devo dire, interviene molto. Sì, sì, interviene moltissimo. Empatia con la coppia, la comunità, che comprende ovviamente la famiglia del ragazzo, prende l'iniziativa di rapire la ragazza per facilitare le trattative per il matrimonio, pensa a te. Ma infatti spiegaci come avviene questo rapimento, è un rapimento concordato, cosa succede? Allora, diciamo che l'utuquala viene vista come una pratica romantica, tra virgolette, simile a una fuga d'amore, in cui due innamorati trovano uno stratagemma per aggirare gli ostacoli alla loro unione. Tuttavia succede spesso che invece l'utuquala avvenga basandosi sull'accordo dei genitori e della famiglia della ragazza, e a cui viene pagata la lobola, cioè insomma capi di bestiame, appunto un ammontare, in cambio del permesso per il rapimento. Ciò si verifica quando la famiglia della ragazza è intrappolata in un ciclo di povertà e condizioni socio-economiche precarie, ovviamente. Tali circostanze sono endemiche in alcuni villaggi rurali del Sudafrica e molto frequentemente sfociano in accordi che prescindono dal benessere dei figli e dalla volontà della ragazza. E quindi chiaramente, Antonella, stiamo parlando di una pratica di abuso. La pratica del utuala, al di là di quest'aura romantica che ho cercato di passare pochi minuti fa, è stata denunciata come una violazione estrema e fondamentale dei diritti più elementari delle donne e delle ragazze, compreso il diritto alla dignità, all'uguaglianza, alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona. È stata infatti riconosciuta come schiavitù sessuale sotto le spoglie di una pratica consuetudinaria. Negli ultimi anni si sta registrando una forte deriva di tale pratica, infatti sono sempre di più gli uomini in età avanzata a ricorrere appunto all'utuala per sposare ragazze molto giovani, pensa addirittura magari dodicenni, spesso appartenenti a famiglie disagiate che concedono le loro figlie dietro compenso. Forme deviate di utuala sono state segnalate a partire dal 2009, anno in cui venne denunciato che più di 20 ragazze abbandonavano la scuola ogni mese perché coinvolte in tale pratica. Questa condotta ha portato a una crisi in cui i governi nazionali e provinciali hanno dovuto intervenire nel tentativo di rispondere a questa sfida. Il governo sudafricano infatti ha messo in atto delle leggi tipo il Children's Act, il Sexual Offences and Related Matters Act, il Domestic Violence Act e altre misure per mettere al bando queste pratiche tradizionali e culturali, dannose però a donne e bambini. Tuttavia i fattori socio-economici, come appunto gli atteggiamenti culturali, l'analfabetismo, la povertà e anche l'avidità, si pongono come ostacolo allo sradicamento di queste usanze. E quali sono stati i tentativi fino ad oggi per cercare di arginare questi crimini collegati all'utuala? Allora Caterina, in realtà la Costituzione sudafricana riconosce e tutela il diritto consuetudinario, cioè questo diritto appunto che esiste di fatto nelle tribù, ma essendo il Sudafrica paese firmatario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, ha il dovere di adottare ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. In altre parole, lo Stato ha l'obbligo di abolire le pratiche tradizionali dannose per la salute e per l'integrità del bambino. Questa disposizione è forse, diciamo, lo strumento più rilevante da utilizzare contro l'utuala, dato che quest'ultima è una pratica tradizionale riconosciuta come dannosa per la salute dei bambini. Però restiamo adesso un po' in ambito musicale, perché vorrei farvi ascoltare la canzone di Angélique Kidjo, Flying High. Quindi cerchiamo veramente di volare alto anche da tutte queste consuetudini che spesso sono dannose per la salute dei bambini e delle donne. Ascoltiamole insieme. We flying high, we... so beautiful. Fools at my confusion and struggle, lost in the dark, you might listen to me. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Due Radio TV. Come sapete, la seconda parte della nostra puntata è dedicata all'ospite e già da ieri gli ospiti su Edu Radio sono Laura, psicologa, e Pietro Corazza, ricercatore in filosofia dell'educazione. Grazie di essere qui, continuiamo la nostra chiacchierata già da ieri. Stiamo parlando del progetto Identità in Movimento, promosso all'interno del villaggio del Fanciullo nel quartiere Cirenaica di Bologna. Ieri abbiamo parlato un po' di come è iniziato, di cosa ha dato il calcio, diciamo, iniziare all'iniziativa. Ma oggi vorrei parlare degli obiettivi di questo progetto, che sono molto ambiziosi. A quanto leggevo, è la promozione del senso civico e dell'integrazione. Obiettivi enormi, bellissimi. Però vi faccio una domanda. È vera anche dall'altro lato, cioè dalla parte di chi è straniero, di chi arriva in Italia, che la percezione, cioè, di non appartenere a questo posto, nonostante magari i propri genitori, i propri fratelli o chi è arrivato prima di loro viva in Italia da molto più tempo? Quando ci si cala nei contesti, cioè quando si trattano questi temi in generale, quindi si provano a mettere delle etichette, italiano, straniero o seconda generazione, sembrano molto monolitiche le identità. In realtà, quando poi ci si trova a parlare con le persone, vengono fuori cose inaspettate. Per esempio, la prima cosa che mi viene da dire per rispondere a questa domanda è che direi che possa poi Laura dirà cosa ne pensa, ma mi sembra che per quasi tutti i ragazzi, anzi forse tutti i ragazzi della Cirenaica che abbiamo incontrato, se dovessi dire qual è la loro appartenenza principale, loro sono della Cirenaica. Quindi non è tanto questa nazione o quell'altra nazione, ma la cosa principale è: io sono del quartiere, neanche di Bologna, proprio del mio quartiere, forte attaccamento al quartiere. E poi magari ognuno altre, diciamo, cose fondanti della propria identità possono essere variegate. Magari per qualcuno può essere la religione, ma forse per la maggioranza no. Sono cose che non ci aspettiamo, magari più il lavoro, più la collocazione sociale. Quindi poi certo è un tema interessante quello del come mi sento rispetto all'Italia o come mi sento rispetto al paese di origine dei miei genitori, che magari io ho conosciuto poco, ci sono stato solo qualche volta in viaggio. Quindi sicuramente per ognuno il discorso è diverso, ci sono delle ambivalenze. C'è un mi sento italiano ma no, mi sento marocchino ma no, c'è una forte evoluzione, c'è, diciamo, la riflessione è molto sfaccettata da questo punto di vista, però sì, con sicurezza direi che tutti si sentono della Cirenaica. Quindi in questo oscillamento, diciamo, tra sentirsi e non sentirsi, dall'altra parte c'è anche chi magari invece si sente proprio italiano, oppure chi sente fortemente la doppia identità tra paese di arrivo e paese di appartenenza? Guarda, secondo me il fatto che comunque come destinatari abbiamo in mente un gruppo di preadolescenti e adolescenti, quindi diciamo ragazzi e ragazze che sono proprio nel momento in cui l'identità la stanno un po' scoprendo, la stanno un po' iniziando a pensare, più che altro la vivono, direi più che altro sono corpo e testa nei contesti, ecco, e curiosi sicuramente, però il fatto è che secondo me siamo proprio ancora all'inizio di quella che si può dire un pensiero su chi sono in questo contesto. È tutta un'evoluzione, è tutto un divenire. Oggi sono questo, domani sarò quest'altro, oggi sono italiano che della Cirenaica e domani voglio andare in Marocco a ritrovare i miei familiari. Quindi diciamo c'è sicuramente un dinamismo grande e una ricerca di capire chi si è un po' giorno per giorno. Da qui comunque il fatto che i ragazzi e le ragazze durante questi mesi hanno dialogato fra di loro su che cosa significa vivere in Italia, su dove vorrebbero vivere nel futuro, su qual è la rappresentazione che le persone che vivono nei paesi di origine delle loro famiglie, no? Qual è la rappresentazione che hanno gli africani di me che sono andato a vivere in Italia? Mi possono considerare africano? Mi considerano un italiano? Ci sono queste domande nella loro testa? E quindi sì, c'è sicuramente presente dentro di loro questa identità un po' transgenerazionale, no? Questa ricerca, queste domande, però è tutto molto chiaramente non definito, insomma, ancora, tutto ancora da scoprire. Avete detto che siete arrivati con delle attività ben precise già a tavolino per fare delle attività con loro, appunto per indagare l'identità. E allora quali sono state queste attività, che anche per facilitare il senso di città che li coinvolge? Allora, una faccenda interessante è stato il capire cosa avevamo pensato a tavolino e cosa è venuto fuori concretamente quando ci siamo messi lì a provare a farlo insieme. Quindi abbiamo pensato molte attività diverse, cercando di coinvolgere diversi linguaggi, quindi sicuramente il gioco, ma anche la musica. C'è una piccola sala di registrazione dentro al centro giovanile dei cortili del villaggio, quindi, e loro sono molto lanciati nel comporre musica. Abbiamo provato a proporre attività teatrali, abbiamo provato a intersecare diversi linguaggi. Alcuni hanno funzionato di più, altri di meno. Quando si trattava di attività più o meno incentrate sul gioco hanno funzionato molto, altre volte abbiamo capito che invece l'attività non funzionava, quindi è stato anche molto interessante per noi la differenza tra essere abituati a persone che magari ti ascoltano, perché quando lo fai in un contesto più formale gli studenti sono in un certo senso vincolati a seguire le tue proposte, mentre il bello della spontaneità dei contesti informali è che le persone che hai davanti fanno solo quello che hanno voglia di fare. Questo è sfidante per noi, ma è anche molto interessante, perché poi quando facciamo le cose è perché davvero le vogliamo fare. E poi devo dire che le cose più interessanti spesso sono venute fuori nei momenti non programmati, cioè nei momenti di pausa, nei momenti di attesa tra una cosa e l'altra, quando semplicemente si stava lì a chiacchierare. In qualche modo gli input lanciati nel corso del tempo ogni tanto maturavano e venivano fuori discussioni super interessanti in un momento inaspettato, e funzionava la cosa quando venivano da loro. Non era magari la domanda lanciata da noi in modo formale, ora rispondiamo tutti a questa domandina, ma spontaneamente uno inizia a dire: ah, io vorrei andare a trasferirmi negli Stati Uniti, ah, perché vuoi andare negli Stati Uniti, cosa pensi che si stia meglio che qua? E grandi discorsi anche sociali, geopolitici, come si vive nei vari posti, anche veramente interessanti, quindi molta ricchezza. Questo devo dire è stato possibile passando tanto tempo insieme, cioè anche dando a loro l'idea che non eravamo lì solo per fare quello che interessava a noi per un'oretta e poi andarcene, ma avere il tempo lungo di interi pomeriggi in cui magari per molto tempo ti sembra di non fare nulla, di stare lì a guardarsi in faccia. Però questo permette l'insorgere in certi momenti di momenti davvero molto interessanti. Mi è piaciuta molto questa cosa che hai detto del gioco e della musica come momenti forti per ritrovare un'identità o scoprirla anche, perché no? E quindi adesso io ho un brano musicale, sarebbe sempre Pharrell Williams con Happy, ma siccome avete parlato di sala di registrazione e di ragazzi che si sono messi in gioco, ecco, registrandosi degli audio e dei podcast, magari una volta ci proponete qualcosa voi, lo facciamo ascoltare su Liberi Dentro. Per adesso vi saluto e ci rivediamo domani. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao. Eccovi, bentornati, sempre siamo giunti ai saluti di fine puntata e come sapete il nostro programma continua la sua ulteriore mezz'ora di programmazione con una rubrica, che sono le nostre rubriche Oggi parliamo di, e abbiamo come ogni mercoledì l'equipe sanitaria del carcere con una puntata che questa volta è replica ma sono sempre piacevoli da ascoltare insieme. Noi vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com e come al solito da me, da Antonella Cortese, da Nea Flacco, un carissimo saluto e ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.